A portata di click. Un ben ritrovati a Cliccarte da parte di Elia e Gustavo. Ah, dimenticavo, oggi il mio collega non è qui. Beh, vi starete chiedendo il perché. Beh, ecco, abbiamo litigato, io sostenevo che avrei potuto condurre Cliccarte senza di lui. E quindi lui è, come dire, partito, parlava di una macchina del tempo, non so cosa. Comunque, basta parlare di lui adesso, torniamo al nostro podcast. Oggi ci sarà una sorpresa. Infatti, per elevare il livello del programma, ho invitato un ospite d'eccezione. Qualcuno che forse, ma dico forse, ne sa più di me, nonostante la sua età. Ecco il bambino prodigio. Salve a tutti! Ciao, come stai? Contento di essere qui? Ciao, sono felicissimo di trovarmi nello studio di Cliccart! È proprio un sogno! Ma dov'è l'altro? Quello simpatico? Kim, io sono Elia, piacere. Ah, sì, l'avevo capito. Ma io cerco l'altro, quello divertente. Passiamo alla prima domanda. Tu in cosa sei preparato? Beh, io tutto. Come tutto? Ci sarà qualcosa che sei meglio? Uso tutto. Va bene, se lo dici tu. Ok, allora io avevo intenzione di parlare dell'oreficeria etrusca. L'oreficeria è l'arte della lavorazione dell'oro e quella etrusca era molto raffinata. Devi sapere che c'erano due tipi di manifattura. Il primo era la tecnica della granulazione. Però, sai dirmi anche in cosa consisteva? Certo, su tutto. In pratica si facevano fondere dei quadratini d'oro, mescolandoli con polvere di carbone per evitare che si toccasse, così. Ottenevano così dei grani che venivano messi su una lamina che era ricoperta di un composto di colla e rame che ne abbassava la temperatura di fusione. Così i grani si legavano alla lamina senza fondersi. Bravo! E l'altra? Si chiama lavorazione a pulviscolo. E cambia dall'altra semplicemente per le dimensioni dei granelli, che sono molto più piccini. Bene, bene. Bene, rimaniamo sempre nell'ambito etrusco e parliamo del Marte di Todi. No, Infatti. lo voglio dire io! Quella statua è fatta in bronzo e rappresenta un guerriero che ha una corazza. E aveva una lancia che però non ha più. Tutto il peso del corpo è sulla gamba destra. Quella del lato dove si mangia, questa. Per Sì, lo so, qual è la destra. Continua. scolpire la faccia, l'artista si è ispirato all'arte greca. No, Bene, bene, bene. Direi che sappiamo qualcosa anche sul Marte. aspetta, aspetta, è sbagliata. Cosa? La statua. Sì, adesso. Non è che vuoi dire che una statua è sbagliata. Abbiamo visto che sei un bambino intelligente. Ti chiamano anche prodigio, però, cioè, voglio dire. No, ci sono gli errori. Sì, vabbè, ok, dimmi, quali sarebbero questi errori? Guarda la foto qua. Vedi la gamba piegata? Tocca per terra ed è lunga come quella stesa. Ma secondo te è possibile? Ah, ma no, ma guarda, allora, se osservi più da questo lato, cioè no, anzi, forse è meglio da questo. No, aspetta, hai ragione tu. Io non lo sapevo. Io sì, ma se non sai le cose, non puoi stare qui. Direi che per oggi va bene, è tutto. Salutiamo il bambino prodigio. Vai dalla tua mamma che è lì, che ti aspetta. Ciao, ciao, ciao, ciao. Sigla, sigla. E te, ciao, ciao, ciao. Regia, se n'è andato? Finalmente non se ne andava più. E che permaloso! Vabbè, finendo di parlare del Marte, volevo soffermarmi sull'armatura, che oltre ad essere molto realistica, presenta un'incisione in cui viene detto che la statua è un dono verso una divinità da parte di un aristocratico, probabilmente un guerriero a giudicare dal soggetto della statua. Bene, comunque, le sorprese non sono finite qui. E infatti mi hanno proposto un ospite che mi dicono sappia molte molte cose. Vediamo che cosa ci può dire. Ecco qui con noi Don Calogero. Buongiorno. Benvenuto a Clickart. E che è un insulto? Cerchi guai? Guarda, la prima cosa è il rispetto. No, no, no, no. È il titolo della trasmissione. Ah, ti sei salvato per questa volta. Bene, vediamo cosa ci sa dire riguardo la chimera di Arezzo. Di che? Come fatto? No, no, è questa qui, questa è una statua. Quindi immagino che lei non. Cosa immagini? Va a vedere. Gesù, Giuseppe e Maria. Ma che è sta roba? Un cane con le punte. Un leone. Sta zitto! Ti ho detto che potevi interrompermi. No. Ecco, appunto. Poi una capra, un serpente, ma che è? È un animale mitologico che venne ucciso da Bellerofonte. Ma questa statua ci mostra appunto il momento in cui il mostro è stato ferito e prova a difendersi con le sue ultime forze. Tant'è vero che l'animale sembra appunto scaraventarsi addosso a chi si trova davanti. Molte parti del corpo sono veramente realistiche, come ad esempio le costole o i muscoli. Altre però invece sembrano veramente stilizzate, come il muso del leone o la criniera. E questo perché l'artista ha voluto rinunciare al realismo per evidenziare delle caratteristiche particolari attraverso quella che viene chiamata deformazione espressiva. E che cosa mi interessa di tutta questa roba? Non so... No, sallo! Sai cosa? Nulla! Mi dispiace, ma... Aspetti, lei è Calogero, giusto? Don Calogero, ricordo, la prima cosa, rispetto. Sì, Don Calogero, sì, l'hanno chiamata. A chi, a me? Sì, guarda. Bene, arrivederci, baciamo le mani. Mamma mia, che tipo strano. Vabbè, fatto sta che alla fine non sapeva nulla. Comunque, anche la chimera di Arezzo, come il Marte di Todi, parrebbe essere un'offerta ad una divinità, ma in questo caso, al contrario, non conosciamo la vera identità del committente. Avviandoci verso la conclusione, per avere ulteriori informazioni, mi sono rivolto a un esperto estero. Ecco, Mr. Graveyard! Salve a tutti, per me è un piacere essere qui. Salve a lei, come sta? Di cosa si occupa precisamente? Non so esattamente, a voi in italiano dite il mio lavoro. Non so, provi a descrivercelo. Ad esempio, ha a che fare con molte persone. Molte, moltissime. Ah, bene, e in che periodo dell'anno lavora di più? Ho sempre cose da fare. Immagino che quindi sia sempre sepolto dal lavoro. Ecco, più che altro sono io che sepolgo le altre persone. Ah, quindi è un becchino. Yes, mia famiglia fa questo lavoro da sempre. Proprio quello di cui avevo bisogno. Si sente poco bene? Questo è il mio numero. No, grazie. Intendevo dire che parliamo proprio di morti. Anzi, in particolare parliamo di vasi funerari. Canopi, per la precisione. Yes, I understand. Well, bene. Mio lontano antenato etrusco fabbricava proprio canopi, in particolare chiusi. È stata ritrovata una sua opera. Cominciamo col dire che i canopi erano caratteristici vasi che contenevano le ceneri del defunto, che venivano scolpiti applicando loro una testa, a volte anche delle braccia inserite nelle ansie dell'urna. Eh sì, questo ricordiamo che è tipico dell'arte etrusca. Infatti, questa popolazione ha sempre cercato di dare un aspetto antropomorfo ai vasi cinerari. Anche per dare importanza all'identità del defunto. Sì, infatti chiusi si cercava di ritrarre l'individuo, cosa che ad esempio i miei lontani avi greci non avrebbero mai fatto. Ecco, esattamente. Ma lei conosce a memoria tutto il suo albero genealogico? Well, riesco soltanto fino al mio antenato. Vediamo, suo nome... Oh, yes, Adam, you know him? Sì, sentito dire ogni tanto. Comunque, vabbè, direi che per oggi possiamo salutarci così. Lei ha modo di tornare in Inghilterra? Sì, però stavo pensando di rimanere ancora un po' in Italy, perché ho conosciuto degli amici qui fuori. Bene, se vuole li facciamo anche entrare. Yes, hey guys! Ciao! Oh no, vai via! Ricordo. Rispetto. Oddio, fa male la testa. Oh my god, si sente male? Ricordi il mio numero? No. Torna, Gustavo. Clicar. L'arte a portata di clic.